stato e là ti ho capita che potere straordinario hai cambiato la mia vita. Un bacio, un abbraccio, ma non c'era più partita. Signorita, il destino è stato del tutto avverso. Ho sbagliato, sono stato stronzo, lo ammetto. E poi hai lasciato solo ghiaccio nel mio letto. Io voto incolmabile, dritto nel mio petto. Le ultime tre parole che divorano come tarli. Una scritta che diceva: ormai è tardi. Il dolore nel cuore iniziava a consumarmi. Ci provavo, ma no, non riuscivo a cancellarti. La persona che ami non la puoi dimenticare. Il trucco non sta nel cancellare, ma cercare un posto dove il pensiero non la possa trovare. Ma una vita senza te non si può immaginare. Mancavi a queste mani, mancavi nel domani. Mi mancava fissarti mentre mi parlavi. Nascondevo dentro il dolore come un rimpianto. Ora la nostra storia è un film e fa male a guardarlo. Intanto mi domando se a vincere il duello sia stato il tempo o solo il nostro sentimento. E la tua immagine, solo immaginandoti io riempio intere pagine. Ma so che questa storia non sarà affatto facile. Il passato bussa le porte, situazioni tragiche all'apice del dolore. Ci siamo fatti male, ma sono troppe le cose belle da ricordare. Passeggiare, mano nella mano, immaginare una vita insieme, tutta da sognare. Fortuna che all'improvviso hai smesso di fuggire. Se t'appigliai al cuore non ha senso vivere. Solo grazie a te sei riuscito a sopravvivere. Solo grazie a te sei una strada da percorrere. Però vorrei capire il come ed il perché. Una come te perda tempo con me. E senza senso tipo controsenso. E sai che una principessa ama un cavaliere senza re. Perché solo tu sai darmi solo tu quello di cui ho bisogno da te. Da te. Perché solo tu sai amarmi. Solo tu sei tu la luce che ciò che sente normalmente, ma io te le di per sempre. Perché sono